male non ne faccio, che mi credono magari un pazzo che cammina per la città. Perché porto i capelli lunghi, perché indosso i calzoni stretti, perché metto gli stivali di cittadino di questo mondo. Bene, ridete di me, ma rendetevi conto però che il malato più grave del mondo non lo porto al guinzaglio con me. Vergognatevi prima di quell'uomo sopra i gradini di una chiesa, mendicante per fame, e poi ridete di me. Riderà di me, rida pure, io male non ne faccio, che mi credono magari un pazzo che cammina per la città. Perché porto i capelli lunghi, perché indosso i calzoni stretti, perché metto gli stivali di cittadino di questo mondo. Perché porti i calzoni stretti, la gente ride di me, ma non faccio male a nessuno. E poi, avete visto la Bibbia? Anche loro avevano i capelli lunghi e si sentivano felici, felici.